Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, anche questa sera parliamo di imprese, ma lo facciamo in una maniera molto particolare. Lo facciamo sulla base di un libro edito da Egea, dove si parla di scienza, umanità e visione nel pensiero e nell'azione di Carlo Masini. Carlo Masini è stato un professore della Bocconi in anni ormai lontani. Il libro è stato curato da Elio Borgonovi e Giorgio Invernizzi. Giorgio Invernizzi è qui con noi questa sera. Buonasera Invernizzi. Buonasera a tutti gli ascoltatori, anche a lei. Giorgio Invernizzi è professore ordinario di strategia aziendale ed è stato un allievo di Carlo Masini, che appunto viene ricordato in questo libro. Allora, innanzitutto, perché è importante nell'ambito della strategia aziendale, della politica dell'azienda, del management, ricordare questa figura? Una figura, riconosciamolo, un po' di secondo piano, non è molto nota al grande pubblico, ma che ha segnato sicuramente un capitolo importante nella storia non solo della disciplina dell'economia aziendale, ma anche della ricerca all'interno di università come la Bocconi. Giorgio Invernizzi. Beh, sicuramente è da ricordare perché ha lasciato un segno che di fatto è indelebile nella storia dell'economia aziendale italiana, quella che poi è stata chiamata anche management da altri autori. Di fatto quasi tutti gli studenti che da 60 anni studiano economia aziendale, studiano dei corsi in università di economia, di fatto hanno dovuto confrontarsi nel bene o nel male col pensiero di Masini o di suoi allievi. Ecco, possiamo dire che il punto centrale del pensiero di Masini è il fatto che l'economia aziendale non è solo una tecnica, ma è, non dico un'arte, ma anche la capacità di partire dalla persona e dai valori della persona in tutta la sua integralità, in tutti i suoi interessi, parlando anche di una realtà che forse nell'economia aziendale può sembrare estranea, come quella del bene comune? Ma sicuramente, difatti Carlo Masini ha sempre impostato in modo molto chiaro i principi di valore da cui lui partiva, che erano sicuramente i principi cristiani, ed era anche molto esplicito in questo, e da qui discendevano i principi cardini per quanto riguarda l'economia aziendale, che essenzialmente erano da una parte l'economicità, cioè che l'azienda doveva produrre dei risultati, ma anche il contemperamento degli interessi, cioè il fatto che i diversi attori dovevano lavorare insieme per gestire l'azienda nel lungo periodo. Questo ha portato a delle precise anche suggerimenti molto concreti, come ad esempio l'utilizzo della ripartizione del reddito fra i diversi stakeholder, come diremmo adesso, ed anche interessanti proposte in termini di corporate governance, cioè che le diverse componenti, da una parte i lavoratori, dall'altra parte come venivano chiamati conferenti di capitali, dovevano costituire un consiglio di amministrazione, e era l'ipotesi era duale, dove in pratica si doveva contemperare diversi interessi. Questo ha portato di fatto a delle interessanti osservazioni e successivamente dei problemi che si sono riscontrati nella realtà, ma di fatto abbiamo anche degli interessanti sviluppi in termini di partecipazione. Peraltro Vittorio Coda, in uno dei contributi in questo libro, riassume alcuni dei principi che sono stati alla base dell'insegnamento di Masini. Lavoro e risparmio concorrono in modo complementare alla produzione di impresa. Ecco, è un principio abbastanza lontano dal conflitto tra capitale e lavoro. Quindi dice Coda, concorrono in modo complementare alla produzione di impresa. Il lavoro è un'attività dell'uomo strettamente personale e poi ancora nell'impresa convergono molteplici interessi e si parla di comunità. Unità d'impresa che mira un bene comune a tutti i suoi membri, i cui diritti, interessi e oneri debbono contemperarsi tra di loro secondo giustizia e carità. Ecco, sono elementi, sono forse parole che non ci si capacita di ritrovare all'interno di un manuale di economia aziendale, università che viene descritta spesso come il massimo della tecnicalità, come la Bocconi. Giorgio Invernizzi. Da una parte dobbiamo dire che non è solo la Bocconi che ha utilizzato queste proposte, perché il libro di Masini e soprattutto il libro degli allievi di Masini, che in pratica hanno ripreso questi concetti, vengono utilizzati in diversi corsi universitari in tutta Italia, come si vede di fatto dal libro. Nel libro ci sono 45 interventi e la maggior parte sono professori, ma fatti di tutta Italia, che ricordano i suggerimenti che hanno colto dalla proposta di Masini e l'hanno hanno riproposto successivamente nei diversi libri e nelle diverse suggerimenti. Il problema sono che certi suggerimenti di Masini ovviamente sono datati, sono figli del loro tempo. Ma allora a questo punto come prendere adesso questo insegnamento, come tradurlo nella realtà attuale, una realtà estremamente complessa, soprattutto sotto il profilo della scienza, del management, come portare questi valori, questi insegnamenti in una realtà come l'attuale, Giorgio Invernizzi? Beh, nella realtà attuale ci sono delle esperienze positive di lavoro e di risparmio, come direbbe il professor Masini. In pratica dei momenti in cui il capitale e il lavoro non sono visti in modo contrapposto. È chiaro, sono degli esperimenti, non su tutte le prime pagine dei giornali, perché si privilegia sempre il conflitto, ma ci sono, e come delle realtà anche di piccola e media dimensione, dove attraverso il welfare aziendale, come si dice, oppure attraverso casi di attenzione alla responsabilità sociale dell'azienda, pensiamo a tutte le problematiche del CSR, oppure pensiamo a tutto il filone della creazione del valore per tutti gli interlocutori, non solo per gli azionisti. E questa, se vuole, è anche una critica a tutta l'impostazione della creazione del valore solo e soltanto per gli azionisti, che di fatto ha siglato gli ultimi 20 anni dell'economia capitalistica. Ecco, ma in questo senso un po' di responsabilità ce l'hanno anche, diciamo così, i professori che hanno portato avanti una realtà, un insegnamento dell'economia aziendale più mutuata dai principi, diciamo così, americani, non rispetto a quei valori che sono tradizionali di una realtà italiana. Sicuramente, difatti non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Ci sono dei corsi di università di una certa impostazione e altri corsi con altre impostazioni. Ci sono alcuni corsi in università dove si parte da una premessa che l'obiettivo dell'azienda è creare valore per gli azionisti, e anzi gli azionisti di maggioranza. Ci sono altri corsi che invece mettono quantomeno un punto di domanda dopo questa affermazione, e quindi propongono, come c'è in economia aziendale ormai, se andiamo a vedere da quando Masini ha insegnato, era il 1975 di fatto ha iniziato a proporre questo libro, e fino ad oggi nei libri suoi, ma soprattutto dei suoi allievi, vi è questa concezione di soggetto economico, cioè di soggetto che vede la partecipazione dei diversi attori, dei diversi portatori di interesse, e conseguentemente sia la remunerazione dell'azienda, cioè il reddito dovrebbe essere un reddito residuale da distribuire a tutti. Ed ha avuto alcuni esempi di contrattazione tipicamente aziendale, dove vediamo che vi sono dei premi di produzione, non sono nient'altro che un avvicinamento a questa impostazione. Sicuramente c'è tanto da fare, soprattutto a livello giuridico di questo. Ecco, e voi ricordate appunto anche i principi che sono nel titolo di questo libro, Scienza, Umanità e Visione, nella prefazione, voi Elio Borgonovi e Giorgio Invernizzi, ricordate come la scienza per Carlo Masini ha contribuito all'accrescimento delle conoscenze, l'umanità perché egli ha sempre investito nelle relazioni personali, e la visione perché è stato un grande innovatore e ha aperto finestre nello sviluppo dell'economia aziendale. Una visione che è proprio la capacità di guardare in avanti, di costruire una realtà basata appunto sui valori, ma che sappia poi adattarsi alle diverse circostanze. Ecco, in questo, ricordando appunto i valori, come quello della carità, come per San Paolo la carità è la più importante delle virtù, per Masini l'umanità ha illuminato la scienza e la visione. Quindi questi valori di fondo restano appunto immutabili, ma comunque vanno tradotti all'interno della nostra realtà. È così, Giorgio Invernizzi? Ma sicuramente, è sicuramente in sintonia con Laudato Si di Papa Francesco questa impostazione, e quindi si vede ancora la modernità. Non a caso abbiamo deciso di mettere come titolo Visione, e i diversi contributi che sono presenti nel libro, ricordo, sono numerosi perché sono 45 contributi, fra l'altro scritti in 5 pagine massime. Questa è stata forse la nostra più grossa difficoltà nel tradurre certi tipi di interventi dei diversi allievi che ormai sono presenti in tutta Italia di Masini in un libro. In 5 pagine ognuno ha dato un contributo su che cosa vuol dire oggi parlare del pensiero di Masini. Ecco, ci ha raggiunto Elio Borgonovi. Buonasera Borgonovi. Buonasera. E ci affidiamo a lui per un'ultima riflessione sul pensiero di Carlo Masini che con Giorgio Invernizzi abbiamo percorso riflettendo appunto sulla validità e sulla necessità di portare i grandi valori dell'umanità all'interno dell'economia aziendale. Elio Borgonovi è convinto che sia ancora possibile e doveroso trattare l'economia aziendale come una realtà fatta da persone più che da numeri? Ma più che possibile direi che è necessario. Qualcuno aveva detto che ci salverà un atto di creatività per dire come superare la crisi attuale. Io mi permetto di dire ci salveranno i valori fondamentali delle persone, quindi anche in una futura società dove si presume ci saranno i robot, le intelligenze artificiali, sono convinto che poi la determinante sarà la presenza di persone che decidano di restare persone e che abbiano una capacità critica di perseguire le proprie aspettative, i propri interessi, però sempre attenti anche all'interesse di altri. Insomma, l'altruismo è una combinazione di attenzione agli altri per essere attenti a se stessi e insieme contribuire al progresso della società. Dobbiamo guardare appunto alla persona nella sua integralità, in questo appunto la prospettiva di guardare ai valori di fondo è sempre importante. Io ringrazio Elio Borgonovi che ci ha raggiunto in conclusione di questo programma e Giorgio Invernizzi, sono docenti alla Bocconi di Economia e Management Borgonovi, di Strategia Aziendale Invernizzi, che hanno curato il libro Scienza, Umanità e Visione nel pensiero e nell'azione di Carlo Masini, edito da Egea. Sono 432 pagine per 45 euro. Ringrazio anche Paolo Corleone in regia e Luca Cremonesi in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.